9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh, eccoci qua cari amici, sempre coi Doors, tanto per ribadire la nostra richiesta di consapevolezza nei confronti di un meccanismo europeo cooperativo che consenta ai mercati di pensare che non stiamo andando dritti con la prua verso gli scogli dal punto di vista dell'euro. Oggi mercoledì 18 gennaio e Santa Margherita d'Ungheria, per una ragione personale devo dire viva Santa Margherita, come potete immaginare alcuni di voi. Detto questo, auguri a tutte le Margherite, ce n'è più di una durante l'anno ma tocca naturalmente fare gli auguri. Detto questo, oggi la puntata è dedicata nel mentre l'Italia si interroga, si bloccano di nuovo i tassisti, corrisse petardi nelle strade, si interroga sul provvedimento di liberalizzazione in arrivo venerdì e probabilmente la gente avrà pensato in queste settimane che a questo punto con le liberalizzazioni chissà cosa deve succedere con la crescita, e invece le liberalizzazioni servono nel medio lungo periodo, non è che abbiano risultati immediati dietro l'angolo, anche se però bisogna farle. Noi ci soffermiamo su un tema che apparentemente potrà sembrare a molti un po' eccentrico, quasi eccentrico, ma che però non lo è. Il tema è presto detto: il ministro della Sanità Balduzzi qualche giorno fa si è lasciato sfuggire di mano, o meglio, ha confermato un'indiscrezione secondo la quale si pensa in Italia, il governo ha una proposta in mano, si pensa di tassare quello che si chiama junk food in inglese, il cibo spazzatura, diciamo così. Che cos'è il cibo spazzatura? Naturalmente le bevande gasate, gli alcolici. E perché si pensa di tassare questi particolari cibi in maniera selettiva? Il ministro, confermandolo, avrebbe fatto capire che è una tassa di scopo, perché oltre ad incorporare un fine virtuoso, cioè lo Stato deve disincentivare a pesare troppo, perché pesare troppo significa contrarre poi patologie che hanno un impatto sul bilancio sanitario, ma oltre a questo la realtà è che lo Stato vuole reperire nuove risorse per l'edilizia sanitaria, e quindi è una tassa il cui fine è la virtù, e quello dichiarato ovviamente, come sempre da parte dello Stato fiscale, è sempre la virtù quella che spacca gli italiani in due tra chi pagano e chi non pagano abbastanza, eccetera eccetera. Poi questo serve naturalmente a radicare il consenso a favore dello Stato su quello che spende, così non ne parlate ovviamente. Ma detto questo, anche in questo caso questa tassa sul junk food, sul cibo spazzatura, ha un fine che viene proposto, poi ne ha un altro, perché il fine è quello dello Stato etico, che vi mette sulla bilancia e vi fa sentire ancora più in colpa di quanto non vi sentiate, e vi disincentiva per questo. Ma la realtà è uno Stato che, come al solito e come sappiamo bene, vista la raffica di aggravi fiscali continui di cui manovra dopo manovra siamo resi oggetto, la verità è che non sa più che cosa inventarsi per metterci le mani in tasca. Allora, la domanda al centro della puntata di oggi è, come al solito, una domanda un po' particolare, perché la domanda in cui vi si chiede, vi chiedo di telefonare all'800240024 se vi piace questo finto stato etico. Io, come al solito, non nascondo dietro un dito la mia posizione, io lo considero uno finto stato etico, lo considero l'ennesima conferma dello stato ladro. Naturalmente io immagino di essere minoranza, perché a molti di voi sembrerà invece che il fine vero di questa tassa, cioè reperire risorse aggiuntive per il fondo sanitario, come se il fondo sanitario avesse bisogno di ulteriori foraggiamenti e non dovesse essere invece compresso per via delle tante regioni che sono in procedura di rientro coatto e delle forniture sanitarie, lo ricordo a tutti che sul totale dei tendenziali 120 miliardi a cui veleggia il fondo sanitario entro il prossimo biennio, pesa per circa 80 di quei 120, che è raddoppiato di oltre, raddoppiato no, perdonatemi, che è aumentato del 50% nei 5 anni. Per crisi le sole forniture sanitarie, cioè l'acquisto di beni e servizi intermedi per la formazione poi dei beni e servizi finali che sono offerti. Allora, io preferisco reputare uno scandalo schifoso che le forniture sanitarie siano aumentate del 50%, mentre non abbiamo dovuto affrontare nessuna epidemia di peste bubonica, tifo petecchiale, piuttosto che dire che lo Stato ha bisogno di altri denari. Naturalmente sono pronto a essere sconfitto se invece voi in ascolto telefonate e oltre ai nostri ospiti, a cui chiederemo di illustrarvi questa contesa sullo Stato che vi mette le tasse, anche disincentivando e distinguendo su cosa bevete e cosa mangiate, voi magari potete essere benissimo d'accordo e quindi telefonate, mandate i messaggi SMS al 349-238-6666. Naturalmente l'idea delle tasse sul junk food non è, come sempre quando si tratta di inventarsi tasse nuove, particolarmente originale. Vi sono diversi paesi al mondo che si sono inoltrati su questa strada, perdonatemi ma sono per l'ennesima volta raffreddato, vi chiedo scusa, e c'è una letteratura scientifica accumulata molto interessante dal mio punto di vista, che non collega così direttamente come voi potete pensare alimentazione, obesità, indici di cronicità e patologie, nel senso che anche se questo collegamento può sembrare del tutto intuitivo, è in realtà poi più controintuitivo di quanto non sembri, nel senso che basta andare a vedere le regioni italiane in cui nell'evoluzione temporale dei dati che noi abbiamo dai censimenti come da altre fonti, le regioni in cui si addensa la maggiore obesità non coincidono con quelle in cui vi è il più alto tasso di consumo, per esempio di bibite gassate. Dopodiché è la mia conclusione, e poi vi presento gli ospiti e lascio a loro la parola, è che questa distinzione diabolica per accisa del consumo più o meno etico di questo o quel cibo, questa o quella bibita, a me sembra proprio l'inferno in terra, per così dire, perché che è il legislatore che identifica presunti o veri dannati, lo fa ammonendovi col ditino del sacro libro in teoria dell'etica e dello stato paternale che si preoccupa del vostro giro vita. In realtà il vero dito è quello che c'ha dietro la schiena, sono due corna, perché dicono ti ruberò anche questi soldi dalla tasca. Lo dichiaro, io sono un po' brutale come sapete in maniera sulla materia fiscale, ma penso che poiché il nostro paese, invece di abbattere debito pubblico, concessioni di Stato e mattoni di Stato, e invece di abbattere la spesa pubblica di troppo, identificando 8-10 punti di spesa pubblica corrente da abbattere in 8 anni, come ha fatto la Germania. Invece di questo, noi in totale continuità tra governi di centrodestra, governi di centrosinistra e tecnici oggi, continuiamo a proporre la strada degli avanzi primari di 5 punti di PIL, dicendo che così ridurremo il debito pubblico. Vi ho citato io l'intervista di Grilli che dice con 10 anni di questa disciplina sanguinosa arriveremo al debito pubblico del 100%. A me scappa da ridere, è una via che uccide il paese, abbatte la crescita e oltretutto uccide le tasche degli italiani, è fatta per l'80% su nuove entrate. A maggior ragione, poiché siamo in questa prospettiva, io dico no, no, no, no e ancora no alle tasse, per di più con finti scopi etici. Immagino che per chi invece tra voi ci crede allo stato etico, allo stato educatore, perché pensa che gli italiani abbiano nel DNA l'anomia, siano dei lazzaroni, siano un popolo di capitani Schettino, per così dire, e lo dico da garantista, per così dire, e allora immagino che invece siamo in minoranza. Vediamo come finisce con le telefonate della trasmissione di oggi, e ora vi presento gli ospiti, ai quali chiedo di essere altrettanto espliciti di quanto sono stato io nel presentare le loro opinioni e i loro giudizi su questa ipotesi di tassazione. Abbiamo con noi Aurelio Ceresoli, che è il presidente di Assobibe, cioè l'associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche. Buongiorno presidente Ceresoli. Buongiorno dottor Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo Sergio Marini, il presidente di Coldiretti. Buongiorno presidente Marini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E Massimiliano Trovato, che è fellow dell'Istituto Bruno Leoni, l'istituto meritorio, think tank liberale e liberista, che spesso con le sue analisi di mercato e sulla liberalizzazione trovate per fortuna sempre più citato sui giornali italiani. La campagna della liberalizzazione è fatta su dati quasi sempre dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Trovato. Buongiorno a tutti. Allora Ceresoli, come Assobibe, non lo so se voi possiate essere favorevoli, ma partiamo da un dato concreto. Avete avuto contatti col ministro? Ve l'aspettate questa imposta? Di che tipo, con che aliquota, con che selettività, con che effetti? Insomma, la categoria che pensa? La categoria è molto preoccupata. Non abbiamo avuto ancora contatti diretti col ministro. Abbiamo avuto notizie dai giornali, da Radio 24, come dalle sue trasmissioni. Avremo non solo come Assobibe, ma come Federalimentare, un incontro con le istituzioni, perché il tema non è assolutamente chiaro. Intanto la definizione di junk food cosa significa? Sia dal punto di vista scientifico che giuridico non è molto chiaro, e quindi il tema va chiarito, bisogna capire quali alimenti riguarda. Quindi ripeto, siamo preoccupati, troviamo queste uscite molto, molto preoccupanti, perché appunto non sono legate al momento a una definizione di junk food, che peraltro a noi pare molto difficile da raggiungere. Marini, c'è il vino o non c'è il vino in queste misure, in questo provvedimento? Malgrado i consumi sul mercato domestico siano in contrazione anno dopo anno, lei che dice? Il vino non c'è, perché così ha detto il ministro, ecco. Cui io mi rifaccio a quello naturalmente che dice il ministro. Però io voglio fare una considerazione a monte, perché se il ragionamento è aggiungere una tassa in più, è evidente che siamo tutti contrari e non c'è niente da ragionare. E invece? Il fatto è che comunque viviamo in un paese in cui un terzo dei nostri ragazzi sono obesi. Lo Stato spende 23 miliardi per combattere l'obesità in termini sanitari, e io ritengo che qualcosa dal punto di vista dell'educazione alimentare o del sostegno dei cibi che rispetto ai temi dell'obesità sono meno impattanti, per esempio frutta e verdura, vada fatto. Ora, se lo strumento giusto è prendere dei soldi nei cibi che per qualche motivo sono o più ricchi di grassi o più ricchi di conservanti o più ricchi di coloranti, e qua chiaramente va fatta una delimitazione molto razionale sul quale si dovrà aprire un dibattito, per poi utilizzare queste risorse per educazione alimentare da una parte e anche per sostegno di cibi più salutari, io non ci trovo niente di male, anzi pensiamo che debba essere una cosa da fare. Se invece l'operazione è semplicemente un modo come un altro per prendere soldi e metterli nelle tasche dello Stato, beh, evidentemente non possiamo essere d'accordo. Naturalmente noi ci battiamo per la prima operazione, cioè tassiamo un po' di più i cibi che possono creare danno alla salute, per fare una grande operazione di educazione alimentare anche nelle scuole, per sostenere il cibo di qualità, e poi magari un po' per abbattere naturalmente quei 3 miliardi di spesa pubblica che sono comunque tanti e che vengono utilizzati per gestire questa obesità che sta diventando anche in Italia, il paese latino mediterraneo, comunque un problema serio. Allora, voi in realtà siete apparsi, stato il secolo XIX, poi altri quotidiani, sì, un po' come i sostenitori della prima ora di questa ipotesi di nuova tassazione, perché è uscita la notizia, sì, che avete organizzato un sondaggio online sul quale il ministro ha avuto ragione di considerare questa ipotesi come accolta con favore, perché il risultato del sondaggio che avete fatto è l'81% degli italiani a favore, quindi una cosa proprio. La domanda però era in questo senso, se sì, la domanda la poniamo nel dire sei d'accordo nel aumentare le tasse agli italiani, punto, è evidente che ritengo che il 100% degli italiani siano non d'accordo. Se la domanda era posta come è stata posta siamo d'accordo a tassare un po' il cibo di peggior qualità, voglio dire, quello più impattante sulla salute, ecco, diciamo, bene, fermo restando che va poi individuato, per in qualche maniera utilizzarlo nella direzione dell'educazione alimentare, nell'educazione nella direzione dei cibi più salutistici, e i cittadini italiani hanno risposto in questa maniera e penso che abbiano risposto con ragionevolezza. Allora, naturalmente lei ha parlato di una cifra con la lotta all'obesità di 23 miliardi? Ecco, però lei capisce che bisognerebbe forse spiegarla meglio, perché io non credo che noi possiamo dire che sul totale dei 100, cioè la cifra del Fondo Sanità Nazionale tra i 110 e i 120 tendenziale, a seconda di quale dei prossimi tre anni vediamo, che di questi più di un quinto vanno per la lotta all'obesità, perché sa meglio di me che non è così. No, però l'obesità non è che è un danno di per sé, è un danno per tutto quello che crea. Per cui tutte le malattie, buona parte delle malattie cardiovascolari, per esempio il sovrappeso, è molto spesso legato a fenomeni, una delle cause principali delle malattie cardiovascolari, dell'ipertensione, del diabete, per cui voglio dire il sovrappeso è direttamente e indirettamente legato a moltissime delle patologie che in qualche maniera poi sono a carico del nostro paese e della spesa pubblica. Pertanto va preso in considerazione un ragionamento notevolmente più complesso. Se noi volessimo direttamente calcolare quello che viene speso per combattere l'obesità, probabilmente è molto meno, ma se lì ci mettiamo una parte della spesa che viene invece sostenuta in termini di spesa ospedaliera, in termini di medicinali per combattere le malattie la cui concausa è l'obesità o il sovrappeso, evidentemente arriviamo a questa cifra. Allora, ripeto, vi sono diversi paesi che hanno adottato nel tempo imposizioni fiscali selettive, disincentivanti per tipo di cibo. La Francia è esattamente uno dei paesi che ha adottato tassazione sulle bevande gassate, e una imposta che dovrebbe portare nelle casse dell'Elisea circa 280 milioni di euro l'anno, ed è un'imposta commisurata per circa 2 centesimi di euro a lattina di bevanda gassata. Ecco, in Francia in effetti i proventi della tassa sulle bollicine sono utilizzati appunto per tagliare il costo del lavoro in agricoltura e sostenere così la produzione locale di frutta e verdura, che, se capisco bene, è la finalità esplicita per la quale il presidente Marini, sondaggio alla mano e quindi una volta confermato non solo per interesse proprio di categoria, è a favore. Però il ministro sembra pensare che invece nel caso italiano i proventi dell'imposta non vanno a favore dell'agricoltura, del cibo sano, per così dire, che non significa debba essere tutto e per tutto biologico, perché apriremo un altro dibattito, non è di questo giorno, ma in realtà al ministro servono per rimpinguare le spese del fondo sanitario, almeno la conferma che si è limitato a dare quando fonti di stampa gli hanno chiesto se fosse vero o meno che era sul suo tavolo questa ipotesi di tassazione, lui lo ha confermato. Oggi naturalmente lo abbiamo invitato, ma non è voluto venire apposta, Balduzzi, e in questo caso in realtà i proventi non sarebbero per l'agricoltura. Altri paesi europei che hanno introdotto regimi analoghi o consimili, per esempio la Danimarca, che colpisce patatine, snack, merendine, con un aumento che è considerevole, perché tramite l'imposta, la sovraimposta, c'è un aumento di 2,15 euro al chilo addirittura. Allora, sentiamo invece come la pensa il nostro terzo ospite del Bruno Leone. Trovato il quadro comparato delle esperienze che Bruno Leone ha studiato in un report l'anno scorso, che cosa, a quali conclusioni invece vi fa giungere? Ma le conclusioni non sono ottimistiche per quanto riguarda l'esito e i risultati conseguiti da un tipo di imposta come quello di cui stiamo discutendo. In primo luogo perché, come ricordava già lei, l'evidenza scientifica sulla relazione tra obesità e effetti sulla salute, ma prima ancora tra consumo di determinate categorie di alimenti e obesità, non sono esattamente chiare come i sostenitori dell'imposta vorrebbero sostenere. In secondo luogo perché sono discutibili gli effetti economici dell'imposta, cioè il fatto che l'imposta sia efficace nello scoraggiare il consumo di questi alimenti e soprattutto che il reddito risparmiato nel consumo di questi alimenti non venga poi, per così dire, reinvestito in alimenti o in abitudini altrettanto se non maggiormente dannose. Un caso significativo da questo punto di vista è un caso che si è verificato nello Stato di New York, perché quando lo Stato di New York ha implementato un'imposta sulle bevande zuccherate, ha reso comparativamente più conveniente l'acquisto di alcolici, determinandone un maggior consumo anche tra i minorenni. Per cui quando studiamo questo tipo di misure dobbiamo sempre tenere in grande considerazione le conseguenze intenzionali che si portano dietro. Un'altra considerazione che mi sembra interessante fare è che un tipo di imposta come questo sarebbe un'imposta con un effetto evidentemente regressivo, cioè colpirebbe in misura maggiore le fasce più deboli della popolazione, e questo non è un problema solamente in termini di equità, ma è un problema anche in termini di tutela della salute, perché a ben vedere sono proprio quelle stesse fasce di popolazione quelle la cui situazione sanitaria è più critica. In altre parole, l'elemento che è maggiormente correlato con la salute è proprio il reddito, e colpire direttamente coloro che fanno ricorso in grande misura ai junk food per il semplice fatto che quelli che noi definiamo junk food, con una categoria che forse è più morale che scientifica, sono poi quegli alimenti che a parità di costo forniscono un maggior apporto energetico. Per cui, di nuovo, ricorrere a questo tipo di imposta andrebbe a danneggiare la salute precisamente di quelle fasce di popolazione che si vorrebbe proteggere. Infine posso dire una cosa. Bisogna considerare anche gli effetti sul sistema economico nel suo complesso, perché parliamo comunque di settori che hanno un fatturato consistente. Le analisi sui paesi che hanno implementato questo tipo di imposte o le analisi a contrario sui paesi che hanno ridotto o eliminato questo tipo di imposte riportano esattamente che tanto in un caso quanto nell'altro si è verificato un aumento di fatturato e di occupazione per quanto riguarda il caso in cui l'imposta è stata abbattuta in Egitto, e un caso invece contrario di riduzione tanto dell'occupazione quanto del fatturato e quindi dell'indotto poi, perché non va dimenticato che questi settori hanno anche un indotto considerevole per quanto riguarda il packaging, il trasporto e il dispacciamento, per quanto riguarda altri paesi come l'Irlanda e la Lettonia. Allora, interrompo perché prima di andare in pubblicità volevo fare una domanda al presidente Ceresoli, ma le bibite soft drinks, quelle addizionate di anidride carbonica, se andiamo a vedere i volumi dei consumi nel mercato italiano negli ultimi anni, sono in espansione o sono in contrazione? Rispondo subito alla domanda, i volumi sono stabili, però approfitterei per collegarmi a quanto detto da Trovato. Noi stiamo parlando, Assobib è una sigla che forse non dice molto ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di produttori di aranciate, limonate, chinotti, cedrate, cole, gazzose, sono produttori italiani, e quindi mi ricollego a quanto detto poco fa da Trovato, che producono in Italia, che danno occupazione, e qui sono in grado di dare dei numeri più precisi di quanto non accennato dal direttore dell'Istituto Leone. Noi abbiamo un numero di occupati di circa 8.000 persone con un indotto di 25.000. Quindi la preoccupazione di cui dicevo all'inizio è proprio sulla ricaduta sui volumi di produzione, che come le dicevo sono stabili, ma a fronte di una tassa minacciata come questa, che noi riteniamo ingiustificata, inutile e ingiusta, potrebbe avere ricadute pesanti sull'occupazione e quindi penalizzare la crescita delle nostre aziende produttrici. Se andiamo a vedere i sondaggi sul consumo di soft drinks e bevande addizionate di anidride carbonica, troviamo che il loro consumo è un ulteriore elemento di regressività, perché è più diffuso per decidere di reddito disponibile non più elevato ma più basso. Noi non stiamo, ripeto, discutendo di misure come quelle adottate in molti paesi e sono adottate anche in Italia di divieto di distribuzione di alcuni questi particolari tipi di bevande, per esempio all'interno dei complessi scolastici ai giovani. Stiamo discutendo di un'ipotesi di tassa di disincentivo generale, cioè di una distorsione generale sul mercato. Eccoci tornati in diretta per questa trasmissione in cui abbiamo scelto questa ipotesi che a molti ascoltatori, e lo immaginavo, può sembrare, rispetto alla complessità dei problemi italiani, le liberalizzazioni in arrivo, le nuove misure fiscali del decreto Salva Italia in via di attuazione, e che poco per volta gli italiani tutti i giorni si abituano a comprendere meglio una volta che ci impattano. Stiamo invece discutendo di un'ipotesi di una tassa aggiuntiva, una delle tante rispetto alle centinaia vigenti in Italia, perché sono ancora centinaia, questa tassa, di cui confermata come ipotesi dal ministro della Sanità Balduzzi, che è relativa a junk food, cioè al cibo spazzatura, fine dichiarato quello di distogliervi dall'obesità, fine ammesso a voce bassa dal ministro, reperire nuovi denari per il Fondo Sanitario Nazionale. Allora, iniziamo a pensare, a vedere, scusate, come la pensate voi. Giancarlo dalla provincia di Bologna, prego Giancarlo. Buongiorno a tutti, 3 secondi per i complimenti, dottor Giannino, di rito ma sincerissimi, sono un suo fan, la seguo anche sul Chicago Blog. Grazie. Quando recepiranno le sue ricette sarà sempre troppo tardi. Comunque, detto questo, vengo al cibo spazzatura. È vergognoso che si pensi a uno Stato etico, a una tassa etica, è censura alimentare. È una follia, e i suoi ospiti hanno già toccato tutti i punti. Si danneggiano aziende che producono in Italia, si criminalizza qualcosa che non ha senso. Potremmo allora supertassare le fiorentine perché sono cibi per i ricchi, non ha senso, e si crea anche un effetto vendetta ormai negli italiani. Siamo molto arrabbiati. Io ho abolito i superalcolici, e mi piaceva molto rum, whisky, eccetera, e ho ridotto a una bottiglia alla settimana il vino, e non mi dispiace bere bene, da quando hanno aumentato le tasse sui superalcolici. Se vogliono facciano informazione sanitaria, informazione, non propaganda, ma la smettessero con le tasse. Monti ha appena detto, con la faccia di uno che mente, che non ci metteva più le mani in tasca, ma anzi ce le mettono gli evasori. Sì. E quindi lei dice in contraddizione anche con questo, e con questo non avevo pensato, ma io tendo sempre a non credere molto fino a che vedo che la pressione fiscale è in aumento, ed è in aumento rispetto alle previsioni di metà dell'anno scorso di 300 punti base, cioè di oltre il 3% nel prossimo triennio, a cominciare da quest'anno 2012, 2013, 2014, noi arriveremo al 46% di pressione fiscale su un'ipotesi di crescita del PIL che non sta incorporando ancora la crescita molto forte che si sta determinando in questo inizio anno, dopo i 2-3 messe col segno negativo che abbiamo alle spalle. E ricordo a tutti che la pressione fiscale del 46% su un PIL che ingloba quasi un 16,8% di PIL calcolato in nero dall'Istat, significa che siamo a una pressione fiscale record mondiale del 54-55, diventerà del 56%. Per le imprese che cosa significa? Significa che noi passiamo, dati 2010, da un 68,6% di pressione fiscale sull'utile lordo di impresa italiana a un record alla fine del 76%. 6% sull'utile lordo. Non sto dicendo sul fatturato, sto dicendo sull'utile lordo. Ricordo a tutti che nel 2010 i tedeschi avevano 30 punti secchi meno di noi di imposizione sull'utile lordo d'impresa, diventeranno 36, e vi ricordo oltretutto che questa media del 2010, il 68,6% di pressione fiscale sull'utile lordo d'impresa, è una media tra la pressione fiscale sul 99% delle imprese piccole italiane, e cui è ancora maggiore, e invece poi alcune migliaia di grandi imprese e banche in cui la pressione fiscale riesce ad essere anche di 30-40 punti inferiore a quella del 99% delle piccole imprese italiane. Tanto per ricordare a tutti la scandalosa violazione che il nostro sistema fiscale fa dell'articolo 53 della Costituzione in materia di progressività fiscale, quando si parla non di persone fisiche, per esse vale, ma di persone giuridiche, totalmente capovolto. Il grande patto tra la politica di qualunque colore e la grande impresa, e lo dico qui a Radio di Confindustria, e la grande banca, è quello per il quale a queste due ultime classi di impresa è consentito pagare anche 30 punti, 35 punti talvolta, meno del 99% della piccola impresa. E tanti saluti alle tante chiacchiere che si fanno poi sulla piccola impresa, pilastro della realtà produttiva italiana. Sentiamo come la pensa, tornando all'imposta sul cibo che vi fa ingrassare troppo, allo stato etico paternalista che decide cosa dovete mangiare o cosa dovete bere, come la pensa Roberto da Milano. Sì, pronto, buongiorno. Sì. La penso esattamente come lei. Ci stanno intruppando, ci stanno mettendo dentro in un gregge, e non dobbiamo capire, non dobbiamo pensare, dobbiamo solo eseguire. Questi ci creano il problema per poi venderci la soluzione, nel senso che te la vendono, ti chiedono soldi. Abbiamo un esempio in scala ridotta a Milano, ti hanno creato il problema delle polveri sottili per poi risolvertelo con una semplice tassa di 5 euro e le polveri scompaiono come per incanto. Abbiamo l'esempio dell'America, che guarda caso c'è scritto il diritto alla felicità. In Italia è l'esatto opposto, ti mettono obblighi in qualunque campo, di qualunque tipo, di qualunque genere, soltanto per prenderti i soldi. Basta, ho finito. Ecco, ci sono alcuni di sms degli ascoltatori che sono molto divertenti, perché c'è uno da Caloccia Corta che dice: ma perché lo Stato non mi deve anche tassare su quante volte decido di congiungermi con mia moglie? Però ragazzi, sembra quasi che non ci siano voci critiche. Guardate, io non li arruolo le telefonate, non voglio pensare di avere solo pubblico che la pensa come me. Quindi sentiamone qualcun'altra per vedere di pescare qualcuno. Ci sarà, perché sicuramente il sondaggio organizzato col diretti di cui ha parlato il presidente Marini dice che c'è un 81% di italiani favorevoli, quindi non posso credere che io vengo ascoltato solo da parte del rimanente 20%. Come la pensa Davide, che chiama da Cesena? Pronto Davide? Sì, buongiorno dottor Giannino. Io penso che questa cosa sia proprio la prova provata che il governo mente spudoratamente, insomma, che non ha anche sui sondaggi, sulle persone favorevoli, perché secondo me questa è l'ennesima sistema per mettere le mani nelle tasche degli italiani, insomma. Allora io volevo fare una provocazione, sì. Perché non si tassano gli obesi come si faceva su qualche compagnia aerea, che le persone più di 90 kg pagavano due biglietti, insomma. Perché quello impatterebbe, vede, su la tutela costituzionale che c'è sul diritto all'eguaglianza, e quindi verrebbe accusato di nazismo, di selezione dei ceppi biologici, delle tendenze attraverso le tendenze di consumo e il peso. Mentre invece l'induzione e lo scoraggiamento attraverso selettività dell'imposta, le imposte devono essere neutre, si tenta di studiare nei vecchi testi di diritto tributario improntati ancora a quello che resta, a qualche reliquia, a qualche lacerto dello Stato liberale. Nella realtà noi viviamo in uno Stato che ha dimenticato la neutralità dell'imposta, pratica disinvoltamente, biecamente, l'assoluta selettività, la totale discrezionalità di incentivi, disincentivi, aliquote, eccetera, perché così si accontentano nicchie, gruppi di interesse, eccetera, eccetera, si promuovono anche cause nobili, ma sempre il fine è quello di incrementare le entrate. Questo nella storia dell'ordinamento tributario italiano ha sempre questo fine, che è un fine molto etico, quello di dire che lo Stato quello che ci raccontano i giornali, lo Stato è povero, gli italiani sono ricchi, è il contrario, se andate a vedere. Uno Stato che intermedia più del 50% del PIL, qui è la fetta più larga, se la prende lui, qui c'è lo Stato ricco e il paese che per reggere questo Stato ricco, qualunque sia la sua pretesa etica, si impoverisce. Io la vedo così, ma capisco che molti la vedono diversamente. This is the end. Torniamo coi Doors ipnotici, yeah. This is the end, this is the end, this is the end. Speriamo di aver contribuito dopo questi mesi a far ragionare qualcuno di quelli pochi che al tavolo europeo e al tavolo italiano possono evitare questo the end. Però per il momento noi continuiamo a sentirlo. Molte mamme, questo mi fa piacere, nei nostri sms al 349-238-6666. C'è Sandra che ci dice che pesa 50 kg, madre di due bambini magri, sanissimi, eppure ha bevuto bevande gassate di buona qualità da quando li aveva in pancia, dice. Io ringrazio Sandra. E Marina invece che ci dice che per combattere l'obesità è più importante una sana campagna sportiva e contro la sedentarietà nelle scuole e nei pomeriggi a casa. C'è chi dice: ma perché non tassare la televisione, che è uno dei più potenti elementi induttivi dell'obesità? Io devo ammettere che questa suggestione mi trova abbastanza favorevole. Prima di un ultimo giro di opinioni nei nostri ospiti, sentiamo ancora Gianluca da Roma. Prego Gianluca, come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, mi associo ai complimenti per la sua trasmissione. Io la vedo esattamente come lei, mi dispiace di accusarmi. Niente, oggi siamo proprio un plotone di totale pensiero unico. Ma probabilmente perché no, tutti ma Gianluca non è colpa sua, questi sono i selettori, i miei bracci destri qua della trasmissione, che siccome sono contrari alle mie idee, loro che sono i titolari della scelta delle telefonate li scelgono tutti da una parte, così io faccio la figura del fesso. Ma siccome siamo buoni amici, sapremo contrastare anche questo tipo di tendenza. Allora, diceva, l'ho interrotto. Io, niente, secondo me è l'ennesima trovata per aumentare il livello di tassazione. Tra l'altro, diciamo, volendo individuare dei luoghi dove si potrebbe immaginare di consumare questi cibi spazzatura, per definirli così, prendiamo i fast food, uno dei pochi luoghi ancora di svago a basso costo per le famiglie con i bambini, là sarà tutto ipertassato, immagino. Ma poi, nel caso in cui ci fosse questa grande ricaduta sulla salute pubblica, ci sono già i monopoli di Stato come le sigarette e l'alcol per poter finanziare la sanità. O perché a quel punto, se parliamo di diabete, bisognerà tassare anche il pane, la pasta. Esatto, bravo, è che non vogliamo occuparci di tassare il salame visto il colesterolo. O il salame e il vino poi. Ma però io non ho capito una cosa, lo Stato è tanto etico che si preoccupa di tutto questo, però sul gioco d'azzardo lì il grande incentivo perché ci fa i miliardi. Scusate, aumentano, perché il mercato delle illusioni, quando c'è crisi bisogna vendere illusioni, e la gente compra. Va bene, grazie Gianluca, adesso. Grazie a lei. Adesso io chiedo al presidente Marini, siccome il problema dell'alimentazione corretta A, poi B, il problema del sostegno alla filiera agroalimentare italiana di qualità e di tutela della qualità è un tema altrettanto importante ai miei occhi sull'economia nazionale, sulle esportazioni, sulla bilancia commerciale, voglio dire, per limitare l'import in questo settore e per promuovere meglio invece la nostra occupazione e la nostra qualità. Da questo punto di vista, secondo lei invece si fa abbastanza, adesso al di là di quello che abbiamo detto all'inizio su questa imposta, tanto qui lo Stato non è che come in Francia pensa di darlo ai suoi iscritti, qui in realtà lo Stato pensa di prenderselo per l'edilizia sanitaria, ma dal punto di vista della qualificazione della qualità e per un'alimentazione più corretta si fa abbastanza secondo lei? Ma guarda, io innanzitutto voglio pensare che non è corretto derubricare questa problematica della qualità del cibo, della sana e corretta alimentazione, degli effetti che la cattiva alimentazione ha sulla salute, sul costo dello Stato, per parlare di tasse. No. Allora, qui se il tema è di fare un processo al sistema fiscale, a me mi trovo davanti a tutti. Se il problema è che la tassazione deve essere neutra, nessuna tassazione è neutra, quasi per definizione, pertanto adesso non cerchiamo nella tassazione sul cibo una neutralità che non esiste da nessuna parte. Se il problema è che chiaramente tassare alcuni cibi che dovrebbero essere individuati dal punto di vista salutistico dannosi, crea effetti economici negativi per quelle imprese che producono quei cibi, è evidente che questo ne siamo convinti, ne siamo certi e non siamo naturalmente non preoccupati di questo elemento qua. Però detto tutto questo non possiamo dire che veramente il cibo o spazzatura è quello che costa meno in relazione alle calorie che dà. Generalmente il cibo spazzatura, o almeno quello che intendo io il cibo spazzatura, le patatine che si comprano al bar, tanto per capirci, danno calorie di bassissima qualità e anche un costo calorico abbastanza per unità di calorie abbastanza alta. Non possiamo dire che non c'è correlazione tra l'obesità e le malattie. No, no, ma io guardi, io non sto difendendo i cibi. Io non sto difendendo i cibi a grassi saturi. Qui c'è. No, presidente Manini, mi permetta a me. Qui c'è titolare di una visione, qualcuno che dice che non spetta allo Stato impedirmi se io voglio mangiare grassi saturi. Io non li mangio e ho anche male di salute, su questo ho smesso anche i superalcolici. Però lei deve rispettare, non deve trattare come se fossimo cretini, per dirlo. Sa cosa vuol dire la neutralità dell'imposta su qualunque tipo di cibo? Che non spetta allo Stato differenziare l'IVA per tipo di cibo, va bene? Funziona così, lei dice. Io dico mi fa schifo per questo paese. Lo sa perché? Perché ci hanno abituato a ragionare così. Hanno abituato voi operatori ad accettare questa cosa, hanno abituato i consumatori a pensare che sia giusto, e invece c'è qualcuno che irriducibilmente dice, urla finché ci danno questa trasmissione, che è sbagliato. Presidente Marini, io le ho fatto un'altra domanda: cosa si può fare di più per tutelare una sana e corretta alimentazione che non siano tasse? Lei può ma non accettarle. La faccia rispondere dopo averla interrotta, dopo che mi sono beccato del cretino perché ho detto che devono essere neutri. Io imparo a reagire. Parli lontanamente, lungi dal voler dire questo. E allora non lo dica. Non l'ho detto e pertanto non dica lei che l'ho detto, perché non è vero. Io stavo dicendo che ho sentito alcuni interventi e non vorrei dare un'immagine, una comunicazione sbagliata. Punto. Non vorrei mischiare l'importanza che deve avere la corretta alimentazione, gli effetti negativi della corretta alimentazione, positivi della corretta alimentazione ha sulla salute, sul bilancio dello Stato, eccetera, eccetera. Con le tasse. Siamo corretti. Una tassazione che merita evidentemente uno spazio, un contenitore e ragionamenti diversi. Poi se lei rispetta la sua domanda, per cui a questo tipo di gioco non ci posso stare, rispetto alla sua domanda se lo Stato fa abbastanza, io ritengo di no. Anzi, noi abbiamo denunciato troppe volte, e continueremo a farlo, comportamenti dello Stato che vanno esattamente nella direzione opposta. Presidente Marini, prendo l'impegno di richiamarlo perché non può finire così, e poi soprattutto ho alzato la voce solo per far capire agli ascoltatori che su questo tema, ahimè, ci sono diversità di opinioni. Comunque torneremo su questo, appuntamento a domani. 9 in punto.